Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Claudio Puglisi dello Scrittoio per presentare il film Cherry Juice di Mersiha Usagic al cinema da giovedì 20 febbraio 2025. Ben trovato. Ben trovati a voi. Cosa racconta questo film? Questo film racconta una storia, diciamo, molto semplice, molto delicata e che vuole andare a capire sostanzialmente cosa lascia una guerra in chi sopravvive a questa guerra. Per fare questo, il registro che la regista ha deciso di utilizzare non è quello del dramma puro, ma addirittura della commedia sentimentale, mettendo a confronto due personaggi, il suo, quello da lei stessa interpretato, quindi di una sceneggiatrice che vive a Sarajevo e il cui film, che deve raccontare la sua storia di scollata durante la guerra, salta per non note ragioni allo spettatore, e colui che avrebbe dovuto essere l'attore protagonista, che si reca a Sarajevo perché la produzione e lei in primis si dimenticano di avvertirlo che le riprese non ci sarebbero più state. E siccome ci troviamo nei paraggi della notte di Capodanno, questo attore decide di rimanere a Sarajevo e trascorrere quel momento, come dice lui, come farebbero i balcanici, godendoselo appieno e cercando di viverlo nel migliore dei modi. Quindi due mondi che si confrontano, quello del carattere molto più estroverso, molto più speranzoso nel futuro e positivo di un tedesco, quindi di un occidentale, e quello di una persona che è uscita da un conflitto e che quindi porta su di sé, nel suo intimo, le tracce di questo conflitto. Cosa vi ha convinto di questo lavoro? La leggerezza con cui è capace di trattare temi molto complessi, ci è piaciuta la capacità di usare registri stilistici differenti, perché vengono utilizzate immagini di repertorio, viene ovviamente, il film è un film di finzione pura, vengono utilizzati dei disegni che sono poi gli storyboard che dovevano servire alla produzione del film. E ci ha convinto poi, perché noi l'abbiamo scoperto al Trieste Film Festival lo scorso anno, ci ha convinto lei, nel senso, una ragazza con tanto talento e che è riuscita a costruire un film che nasce dal termine del suo percorso di studi di cinema a livello universitario e che, pur in assenza di mezzi, è riuscita con diversi anni di lavoro a portare a casa un progetto realmente interessante. Della regista cosa sappiamo? È un'attrice, oltre che regista, che vive in questo momento a Parigi, è cresciuta in Germania, quindi lei dice: la mia anima è un po' divisa in due, il paese dove sono nata e dove da ragazzina fino ai 3 anni sono cresciuta, che ama profondamente la sua terra, quindi Sarajevo, la Bosnia, e il paese in cui è cresciuta, la Germania. Oggi vive a Parigi, lavora come attrice e sta lavorando a scrivere il suo prossimo film, che in parte vuole ambientare anche in Italia, in particolare in Sicilia. Che percorso ha avuto all'estero il film? È stato selezionato in tantissimi festival internazionali e un po' dovunque è andato ha raccolto il favore della critica, e che lo sta trattando bene, devo dire la verità, anche in Italia, e soprattutto l'interesse e il favore del pubblico, che lo ha sempre premiato spesso con riconoscimenti quale miglior opera proprio per gli spettatori. Che distribuzione sarà? Premettiamo, il film, grave handicap apparentemente per il mercato italiano, verrà proposto in lingua originale con i sottotitoli. Il film è per il 90% parlato in inglese. Verrà proposto volutamente con i sottotitoli per non andare incontro a doppiaggi che siano un po' delle storpiature, spesso e volentieri ultimamente purtroppo capita un po' di vederne, e verrà fatto un lavoro per cercare di consolidarne la presenza nelle principali città capozona. La regista e l'attore protagonista per questo verranno in Italia, verranno a presentarlo a Roma al Cinema delle Province la sera del 21 febbraio, a Milano al Cinema Mexico la sera del 22 febbraio e a Bologna il 23 febbraio, sempre sia la regista che l'attore protagonista. Di lì poi si cercherà di fare un lavoro partendo dalle città capozona per arrivare sui centri minori. I riferimenti web per sapere dove andare a vederlo? Tutti i social dello scrittoio principalmente sono costantemente aggiornati, quindi lo scrittoio è rintracciabile sia su Facebook che su Instagram, dove costantemente viene data notizia delle sale dove il film sarà presente, dove verranno svolte le presentazioni e in costante aggiornamento. Il film Cherry Juice di Mersiha Kusacic al cinema da giovedì 20 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Claudio Puglisi dello scrittoio che lo distribuisce. Alla prossima! Grazie, grazie, grazie a voi tutti, grazie ancora. Con Michele Sancisi di Wanted Cinema, che distribuisce il film I Am Martin Parr di Lee Schulman al cinema da lunedì 17 febbraio 2025. Ben trovato. Grazie Federico, ben trovato a te e ai tuoi ascoltatori. Spieghiamo cos'è. Vorrei fare una premessa. Il film di cui parliamo oggi esce nell'ambito di una iniziativa che Wanted ha lanciato in questo mese di febbraio, il mese del Doc Wanted, perché il documentario è sempre stato, insomma, una delle passioni di Wanted Cinema. All'inizio era solo una casa di distribuzione di documentari, ora distribuisce anche film di finzione, ma il documentario resta sempre nel cuore. E quindi questo mese l'abbiamo voluto dedicare al cinema del reale. Tra il 17 febbraio e il 24 febbraio usciranno ben 6 titoli di documentari su di temi più diversi della nostra vita, del mondo contemporaneo. Partiamo proprio con questo ritratto del grande fotografo inglese nato a Brighton, che viene raccontato appunto da Lee Schulman. È una storia, è un personaggio, sono molto inglesi, eppure la produzione del documentario è francese, e insomma è un ritratto anche ironico e a tratti parecchio divertente di questo grande fotografo Martin Parr, che è tra i più esposti al mondo, quello cioè al quale vengono dedicate il maggior numero di mostre in tutto il mondo. Anche in Italia ci sono state delle personali sue. Recentemente a Bologna è stato esposto proprio sotto le due torri e lui è stato ospite, dove l'abbiamo anche incontrato per fargli un'intervista che poi si può ritrovare sulla nostra canale YouTube di Wanted Cinema. Di Lee Schulman cosa sappiamo? È un documentarista che evidentemente coltiva la passione per il documentario. Aveva fatto dei video musicali e dei lavori minori. Questo è il suo primo lavoro importante di lungometraggio, quindi possiamo considerarlo quasi un esordiente. Però la regia è molto interessante e sicura, perché da una parte ci sono sia delle testimonianze di persone che parlano di Martin Parr, sono dei critici d'arte o degli amici e collaboratori, ma soprattutto li regia ha seguito Martin Parr nelle sue peregrinazioni per le strade e sulle spiagge della sua città, dove lui va a cercare persone normali ma un po' eccentriche, e quindi ci sono personaggi interessanti che lui va a scovare e che ci restituisce con un suo stile fotografico ipercolorato e spesso molto ironico. Quindi troviamo situazioni sempre divertenti delle quali lui va a caccia girando con il suo carrellino, perché ha delle difficoltà di deambulazione. Quindi vedi questo signore un po' piegato in avanti con la macchina fotografica al collo e il suo carrellino di sostegno, che attraversa spiagge e strade, ferma i passanti, chiacchiera un po' con loro e gli fa delle fotografie buffe. È un metodo particolare che appunto si poteva catturare solo andandogli dietro per tanto tempo in diverse situazioni e cogliendo i momenti più interessanti di questa interazione che lui ha con la gente. Che figura ne esce fuori? Di un maestro della fotografia sicuramente riconosciuto a livello internazionale, ma anche di una persona semplice, con il senso dell'ironia, con la voglia e la curiosità di chiacchierare con la gente e di vedere come vive e di raccontarci quindi il nostro contemporaneo con un occhio ironico e colorato. Quindi direi un personaggio importante, ma che all'apparenza insomma è come un nostro parente con il quale possiamo scambiare due parole al pub davanti ad una birra. All'estero che percorso ha avuto? Il film esce più o meno in tutto il mondo, l'Italia è uno dei primi paesi in cui viene distribuito, ma sicuramente Inghilterra, la Francia ed altre nazioni europee seguiranno a breve. È un film molto nuovo, è stato terminato da poco, e c'è stata anche una lunga lavorazione, ma sicuramente è un film che farà il giro del mondo. Che uscita sarà? Saremo in sala, come dicevo, con 6 documentari. Gli altri titoli sono Fiume o Morte, un documentario di cui si sta parlando molto, Montecorno, un documentario sulla montagna, Il genio di Gianni Versace sul grande stilista, Going Underground, una storia musicale della band bolognese di Gas Nevada, Mies van der Rohe sul grande architetto e stilista tedesco. Questi documentari vanno in distribuzione e sono proposti a tutti gli esercenti e per ora ciascuno di loro ha prenotazioni per una decina di sale, quindi in totale saranno circa 60 sale che faranno girare questi 6 documentari che speriamo possano poi rimanere a lungo nelle sale anche oltre il periodo che abbiamo pensato, appunto, del mese del doc in febbraio 2025. Ci dai i riferimenti web per sapere dove vederlo? Sul sito www.wantedcinema.eu ci sono delle pagine dedicate ai singoli film e c'è anche una situazione aggiornata delle sale dove li si può trovare e anche il canale YouTube di Wanted Cinema, sul quale carichiamo spesso nuovi contenuti, interviste agli autori, presentazioni. Il documentario I Am Martin Parr di Lee Shulman al cinema da lunedì 17 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Michele Sancisi di Wanted Cinema che lo distribuisce. Alla prossima! Alla prossima, ciao! Con Igor Bezinovic, regista del film Fiume o Morte, al cinema da lunedì 17 febbraio 2025, ben trovato. Grazie, ciao a tutti. Ci presenti questo lavoro? Sì, prima di tutto scuse ai tuoi ascoltatori perché non sono fluente in italiano, però spero che riesco a spiegare tutto più o meno. Allora, il mio lavoro è basato sui fonti storici e sulle fotografie, video o filmati dall'epoca quando Gabriele D'Annunzio ha conquistato la mia città di Rijeka, o in italiano Fiume. E noi abbiamo fatto una ricostruzione di 16 mesi dell'occupazione della nostra città. Come era nato il progetto? 20 anni fa, quando avevo 22 anni, ho capito che c'è questa storia di occupazione della nostra città e che io non so troppo. Non ho imparato questa storia in scuola, neanche in famiglia, e che i croati di Fiume d'oggi non conoscono la storia. La storia viene insegnata alle scuole elementari, al liceo italiane, perché esistono ancora a Fiume, però ho capito che non esiste una storia coerente che potrebbe essere condivisa tra i fiumani italiani e i fiumani croati di Fiume e le altre nazionalità. E così ho deciso di iniziare un progetto abbastanza ambizioso e di ricostruire questa storia e per costruire un narrativo dal punto di vista dei cittadini di Fiume d'oggi e non dal punto di vista di D'Annunzio. Che impostazione ha il documentario? Come è costruito? Il documentario è cronologico, però è fatto in collaborazione con cittadini di Fiume d'oggi. Abbiamo invitato tutti i cittadini di partecipare al nostro progetto e poi abbiamo ricercato e studiato queste vicende per 5 anni e per 1 anno e mezzo abbiamo fatto le riprese e poi il montaggio di 2 anni. Allora è stato per me personalmente un progetto di 10 anni di lavoro in totale. Su cosa l'hai voluto centrare il documentario? Per me è stato importantissimo fare una storia sul protofascismo, paragonare il presente e il passato. E siccome in Italia la storia di D'Annunzio oggi, già per più di 20 anni, è legata ai aspetti d'avanguardia che non mi parlano così importanti per noi cittadini di Fiume, io e i miei collaboratori volevamo presentare la storia come l'inizio di un sistema autoritario e una dittatura. Cosa ti ha impressionato maggiormente di quella vicenda? Mi ha colpito che esiste un archivio iconografico immenso di più di 10.000 foto e che tutto è stato fotografato e documentato dal punto di vista degli occupatori. Allora hanno presentato tutta l'occupazione come una grande festa e dal punto di vista dei cittadini di Fiume dell'epoca, croati e italiani, non è così presente nelle testimonianze. E io volevo cambiare il punto di vista e questa volta rifare la storia raccontandola dal punto di vista dei cittadini d'oggi. Qual è il punto di vista dei cittadini d'oggi? Abbiamo già avuto la prima qui a Fiume, tutti i biglietti sono esauriti già per tantissimi giorni, allora la città ha accettato il film come suo, direi. Il punto di vista è che questi 16 mesi sono stati 16 mesi di occupazione, come ha detto Pierpaolo Pasolini, che era una pagliacciata narcisistica e non una rivoluzione né un'impresa ma un'occupazione. Che distribuzione sarà? Abbiamo già avuto due anteprime italiane, una a Venezia e a Trieste. A Trieste hanno dovuto cambiare sala e hanno dovuto spostare la proiezione in una sala più grande, al cinema Ambasciatori abbiamo avuto una proiezione veramente interessantissima, con tantissime domande, un grande applauso, allora sono contentissimo. Per il futuro vediamo come sarà la distribuzione, mi pare che il progetto non è così visibile nei media italiani, però abbiamo un distributore abbastanza grande, Wanted di Milano, e sono sicuro che faranno un lavoro bello per il nostro progetto. Il documentario Fiume o Morte al cinema da lunedì 17 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Igor Besinovic. Alla prossima! Alla prossima! Con Claudia Bedogni di Satin Film, che distribuisce il film L'Uomo di Argilla di Anaïs Telen al cinema da giovedì 13 febbraio 2025. Buongiorno Federico, ben trovato, grazie come sempre dell'invito, grazie mille. Che film è questo? Io sono appena arrivata a Berlino e sono davanti a un'immagine di grande poesia, una Berlino completamente bianca e nevicata, e questa poesia è quella che ho vissuto in questi giorni insieme al protagonista dell'Uomo di Argilla, Raphael Thierry, e durante le presentazioni, perché tutti quelli che amano non solo il bel cinema ma l'arte, la musica e la bellezza in generale, questo termine così al tempo stesso oscuro che noi spesso utilizziamo prendendo a prestito anche nobili citazioni, ma che in realtà poi abbiamo difficoltà a definire quando ci viene chiesto cos'è la bellezza. E la regista è riuscita a dare una sua interpretazione che è assolutamente condivisibile. La bellezza è ciò che guardo nel profondo delle cose, quello sguardo che riesce a entrare in profondità e a cogliere, a capire l'animo umano. Io amo sempre dire, quando tu così cortesemente mi inviti, che per la Satin, per me il cinema è una finestra sul mondo, uno sguardo appunto che ci permette di conoscere realtà, culture, situazioni che ci sembrano tanto lontane anche in senso geografico e culturale, ma che in realtà sono più vicine di quanto pensiamo e allarga i nostri orizzonti. Però il cinema può essere anche un'opportunità di uno sguardo interiore che al termine della visione ti fa proprio vedere le cose in un modo diverso. E questa giovane regista, alla sua prima opera, e questo lo dico da spettatrice, credo che sia riuscita nell'intento di trasmettere qualcosa di estremamente poetico e profondo, che trasforma non solo le vite dei protagonisti ma anche le vite dello spettatore, perché chi ama l'arte e le cose belle, quando ha un modo poi di doverla apprezzare dopo la visione, ha una domanda in più che si pone, che è la domanda poi che, se volete, condivido con i tuoi ascoltatori. Però prima magari raccontiamo un po' qualcosa del film, giusto? Perché poi sai che quando inizio a parlare poi non mi fermo più nessuno. Ecco, raccontiamo un po' di trama. L'Uomo d'Argilla innanzitutto ha debuttato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, nella sezione premio del pubblico al Busan Film Festival, e la trama è molto, molto semplice, perché l'ambientazione è un'ambientazione fiabesca, molto seducente, proprio un tono quasi da favola, perché all'inizio è questa musica molto avvolgente che ti proietta immediatamente. Siamo in Francia, la location non ha nessun tipo di importanza, anche se è stato girato nel Morvan, che è appunto il luogo del protagonista, Raphaël Thierry, e ci sono due personaggi essenziali, ovvero Raphaël e la mamma, che sono custodi di questo maniero ormai disabitato perché i proprietari lo hanno abbandonato da anni. E Raphaël ha un fisico sgraziato, possente, le sue giornate sono scandire una routine che va dalla caccia alle talpe, che lui si diverte appunto ad appendere nel giardino, agli incontri fugaci, così dei giochi un po' sessuali con la postina del paese, al suono della cornamusa, che lui si diletta proprio a esibirsi con un gruppo locale di Terra Gallica in esibizioni corali, anche qui con una musica molto seducente, molto accattivante. Però insomma la sua vita non è che abbia dei guizzi dinamici, con una mamma poi tra l'altro anche abbastanza opprimente. Un giorno però, anzi una notte tempestosa, arriva l'ereditiera del castello, di cui non si sapeva assolutamente nulla, Garance, che è una figura fragile, tormentata, e si scoprirà di essere una famosa artista di arte contemporanea che sta attraversando un momento particolare della sua vita. E questo incontro fra lei e Raphaël, perché il personaggio si chiama come Raphaël Thierry, come protagonista, è un incontro trasformatore. Non è un'ennesima versione della Bella e la Bestia, ma qui andiamo oltre, andiamo a un incontro di chi sa leggere reciprocamente nell'anima della persona che ha di fronte, con modalità diverse, con intenzioni diverse. Alla fine ti chiedi chi è l'artista tra i due, e questa contaminazione di anime, di progetti, di sensibilità porta a qualcosa di magico che coinvolge tutti, non solo i protagonisti ma anche gli stessi spettatori. Posso dire una citazione di Anaïs che mi ha molto colpito durante una sua intervista. Ha detto che un'opera d'arte nasce dallo sguardo di un artista sul suo soggetto, ma che ne è poi del soggetto una volta che l'opera è completata? Che cosa resta di quello sguardo? E lei ha inteso proprio raccontare una storia che i musei e le gallerie d'arte non raccontano, quello che ama descrivere un segreto, cioè la risposta a questo quesito, tra Raphaël, il protagonista, e il pubblico. Io invito proprio il pubblico a scoprire questo segreto vedendo il film. Ricordo gli attori, sono due attori magnifici. Raphaël Thierry l'abbiamo già conosciuto nelle Vele Scarlate di Pietro Marcello, in Povere Creature di Lanthimos, e Manuel De Vos, che non ha bisogno di presentazioni, insomma è indimenticabile, anche in uno dei nostri ultimi film, I profumi di Madame Valberg. Non solo, perché ci sono anche altre attrici assolutamente straordinarie, tra cui la mamma di Raphaël, appunto, che invito a scoprire perché ha debuttato al cinema all'età di 90 anni in una performance che vedrete ha dell'incredibile, è veramente una consumata artista, e così come la postina, e insomma si vede che amo molto questo film, è rimasto veramente nel cuore dalla prima visione e non vedo l'ora che gli spettatori possano scoprirlo. In quante sale? Iniziamo sempre col poche ma buone, purtroppo ormai è sempre più esiguo, diciamo che è cambiata un po' la distribuzione, la strategia e anche le possibilità distributive, nel senso che anziché concentrare tutto nei primi giorni dell'uscita si tende a prolungarne la vita, quindi usciamo con una decina di sale, i soliti orari intermittenti, ma poi sono fiduciosa che il passaparola del film sarà positivo e che altre sale saranno incoraggiate a programmarlo, perché veramente il film lo merita e credo davvero che sia un film che fa del bene, che gli spettatori quando escono dalla visione siano veramente felici. I riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo? Sulla nostra pagina Facebook, Satin in Film Distribuzione, e anche Instagram, e tra l'altro anche la stampa ha dimostrato grande affetto verso il film, apprezzandone sia i meriti artistici. Ci tengo anche a dire, senza svelare troppo, che le opere che vedrete, le opere d'arte e tutte le invenzioni appunto artistiche che sono presenti nel film, sono proprio frutto della grande creatività e fantasia di Anaïs Pelen, che appunto dicevo regista, ma anche lei è una veterana nel mondo dell'arte, perché ballerina, attrice, e ha dimostrato proprio una grande eleganza, finezza e anche capacità di avere una visione a tutto tondo di quello che è il mondo dell'arte, quindi non solamente capacità di dominare il mezzo cinematografico ma anche di riuscire proprio ad unire le arti. Infatti è stato molto bello perché in occasione dell'arrivo di Raphaël Thierry appunto abbiamo organizzato un'anteprima a Palazzo Farnese invitando gallerie d'arte, direttori di musei, artisti, ed è stato un momento stato veramente bello, proprio una sinergia di emozioni molto forte, perché chiaramente chi veniva dal cinema vedeva il film con un certo tipo di sguardo e chi invece vede rappresentato il proprio lavoro con un tipo di sguardo diverso, e devo dire che l'unione è veramente un momento di bellezza, almeno per me lo stato, ecco, se vogliamo parlare di bellezza in termini soggettivi. Il film L'uomo di argilla di Anaïs Telen al cinema da giovedì 13 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Claudia Bedogni di Satin Film che lo distribuisce. Alla prossima. Grazie a te, grazie a voi, grazie, grazie Federico. Alla prossima. Con Pietro Liberati di Trent Film, che distribuisce il film Una barca in giardino di Jean-François Lagoni al cinema da giovedì 13 febbraio 2025, ben trovato. Grazie a voi per l'invito, grazie Federico. Cos'è questo lavoro? Una barca in giardino è un film straordinario d'animazione, animazione tradizionale mescolata in maniera quasi impercettibile all'animazione 3D. È la seconda volta che noi ci dilettiamo nel campo dell'animazione. La prima volta l'abbiamo fatto con Yuko, il fiore dell'Himalaya, un film che è uscito circa un anno e mezzo fa, che ha avuto nel corso del tempo un grandissimo riscontro di gradimento e di pubblico. A Roma siamo ancora in programmazione, bene o male, al cinema dei piccoli da circa 15 mesi con questo film. E così come quello era un film per bambini che piaceva molto anche ai grandi che li accompagnavano, questo è un film per grandi che può piacere anche ai bambini e ragazzi che li accompagnano. Un film per tutta la famiglia, ma in un senso molto diverso. È la storia di una maturazione di un ragazzino nella Francia del secondo dopoguerra. François è un ragazzino come tanti nella provincia francese, in una cittadina molto piccola nei pressi della Marna, che impara a conoscere la sua famiglia attraverso un'esperienza bizzarra che avviene nel suo giardino, perché un giorno suo padre, un rappresentante di commercio, decide di cominciare a costruire una barca, prima da solo, poi con l'aiuto di sua madre e infine anche con il suo. E sarà l'occasione per conoscere bene o male meglio i suoi genitori, ma anche per maturare, perché la costruzione di questa barca durerà anni in cui François passerà dall'infanzia all'adolescenza. Cosa ti ha convinto di questo lavoro? Beh, questo è un film che affonda le sue radici in una tradizione molto nobile dell'animazione. Ha anche un sottofondo autobiografico da parte del regista, che è uno dei maestri dell'animazione europea, il primo allievo di Paul Grimaud, che è noto anche come il Walt Disney francese. Lagoni ha fatto alcuni film particolarmente influenti, è un animatore della vecchia scuola, ormai 85enne, che racconta la sua infanzia, bene o male, racconta il mondo che ha vissuto, la sua maturazione, un'Europa che non c'è più, è un modo di vivere che non c'è più, un modo di essere padri anche, che forse non e lo fa in una maniera vivida, poetica, in un modo che cattura lo spettatore dall'inizio alla fine. Per i ragazzi sembrerà quasi di leggersi o di sentirsi leggere il racconto di una vita. All'estero che percorso ha avuto? È la prima volta nella storia della nostra etichetta di Trent Film che noi usciamo quasi contemporaneamente al paese che ha prodotto un film. In questo caso in Francia il film è uscito alla fine di gennaio, noi abbiamo fatto delle anteprime addirittura prima, il giorno dell'Epifania, a Roma e a Bologna, anteprime che sono andate quasi tutte sold out tra l'altro. E siamo usciti appunto da pochi giorni in concomitanza con il Festival di Sanremo, principalmente nelle città chiave, una ventina di schermi, e dal weekend cinematografico saremo presenti in un numero di schermi per noi record di 70, compresi alcuni circuiti multiplex italiani. I riferimenti web per sapere dove vederlo? La nostra pagina Facebook Trent Film It e il nostro account Instagram sempre Trent Film It, mentre il nostro sito è www.trentfilm.it. Tra i nostri partner per questo film ci sono anche mymovies.it e la Lega Navale Italiana, un ente associativo che ha 250 sezioni sparse in tutta Italia. Il film è Una barca in giardino di Jean-François Lagonie al cinema da giovedì 13 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Pietro Liberati di Trent Film che lo distribuisce. Alla prossima! Alla prossima, grazie Federico. Con Luca Cococcetta, regista del film Montecorno, pareva che io fossi in aria. Al cinema da lunedì 17 febbraio 2025, ben trovato. Ciao, ciao a tutti, grazie. Raccontaci di questo lavoro. Montecorno nasce dalla mia passione per la montagna e per il Gran Sasso. Io vivo all'Aquila, frequento questa montagna da anni, inverno, d'estate, e conoscevo la storia di questo uomo rinascimentale, Francesco De Marchi, che all'età di 69 anni, che nel 1573 era un'età estremamente avanzata, decide, dopo averlo desiderato per 30 anni, di salire sulla vetta del Corno Grande, e lo fa per spirito d'avventura. Lui era un uomo molto curioso, aveva inventato lo scafandro per scendere nel lago di Nemi e trovare le navi romane, una sorta di scafandro rudimentale. Dopo l'ascesa del Gran Sasso fa una prima speleologica, quindi scende in una grotta, una delle prime speleologiche documentate, anche questa. E quindi ecco, nel film abbiamo voluto raccontare questa storia utilizzando uno stile misto di fiction, una ricostruzione in fiction di questa ascesa, dove Massimo Poggio interpreta Francesco De Marchi, e una parte di documentario che poi va a contrappuntare tutti gli elementi che nella cronaca scritta che ci lascia l'ingegnere militare Francesco De Marchi già sono presenti, quindi temi come la misurazione del ghiacciaio e il calderone, i commerci di lana e pelli che si facevano all'epoca tra i due versanti di questa montagna, quindi anche ci racconta come si viveva all'epoca. È un racconto molto ricco e molto bello dal punto di vista letterario, e ci riporta a un alpinismo delle origini del 1573, quindi 200 anni prima della data ufficiale in cui nasce l'alpinismo con il Monte Bianco nel 1786. Come era nato il progetto? Come hai conosciuto questa storia e come hai pensato di tradurla in film? La cronaca di De Marchi è stata riportata alla luce da un bollettino del CAI nel 1930, però poi è rimasta ai margini della storia dell'alpinismo. La sezione del CAI dell'Aquila poi negli anni ha effettuato delle ricerche fino a un convegno del 2005 in cui si ricostruiva questa vicenda, e hanno stampato un libro che raccoglieva tutti quanti i riferimenti a questa storia. Però dal mio punto di vista l'idea probabilmente è nata più con il passaparola, sai, si va in montagna e qualcuno ti cita De Marchi, dice, ah, nel 1573 Cesco De Marchi salì questa montagna. La curiosità è nata così. Come ci hai lavorato sopra? Siamo partiti dal testo, che è molto bello, come dicevo, e molto ricco, che di per sé già era una sceneggiatura buona, nel senso che De Marchi, appunto, salendo, ci racconta di tutti questi elementi che caratterizzano la montagna. Quindi abbiamo costruito tutta la struttura del film intorno al racconto stesso. E poi abbiamo coinvolto alcune persone che potessero al meglio parlarci di alcuni temi, quelli storici, quelli alpinistici, quelli orografici, fino ad arrivare al secondo protagonista del film, che è Beppe Armas, che ripercorre in qualche modo oggi l'ascesa di De Marchi, salendo sul Gran Sasso e raccontandoci che cos'è oggi invece l'alpinismo rispetto a quello che poteva essere nel 1573. Com'è stato il lavoro con il cast? Bellissimo, perché è stato faticoso, indubbiamente abbiamo camminato tanto, ci siamo spostati con gli zaini e l'attrezzatura sulle spalle, quindi non abbiamo utilizzato elicotteri, nonostante abbiamo girato buona parte della fiction tra il 2004 e il 2009 della vetta. Però devo dire che tutti sono stati entusiasti di raccontare questa storia e anche di vestire dei panni dell'epoca, di lavorare in costume. C'è stato grande, grande coinvolgimento, che tra l'altro continua tuttora, perché dopo il film siamo rimasti ovviamente tutti in contatto e abbiamo creato un legame anche tra, appunto, Massimo Poggio e Beppe Armas con la nostra montagna, il Gran Sasso. Rispetto a quel personaggio e a quell'impresa, su quali elementi hai voluto concentrarti? Gli elementi che ci interessavano di più, conoscere il giocatore, erano quelli ovviamente legati al racconto dell'arrivo in vetta, in cui De Marchi fa una lunga digressione che poi noi abbiamo tagliato ovviamente anche su diversi aspetti, quindi appunto i nomi delle vette, la fauna, ci racconta di quale presenza ci fosse di uccelli, per esempio sulla vetta del Corno Grande. Quindi ci siamo concentrati, diciamo, sulla parte proprio relativa all'ascesa del corno. In realtà la sua cronaca ci racconta anche altre cose che per motivi di tempo non abbiamo potuto mettere nel film, ma che sono comunque interessantissime. Quindi ecco, siamo concentrati sull'ascesa e su come avesse organizzato la sua impresa con dei portatori locali, dei cacciatori di camossi che ritrova alla Sergi, che è il paese che si trova alle pendici del Gran Sasso dal lato aquilano. Che distribuzione sarà? Il film sarà in distribuzione con Wanted Cinema in sala e ci saranno una serie di eventi diffusi nei prossimi due mesi. E poi è stato acquisito da Rai, sarà in onda su Rai Storia e Rai Play da maggio in poi. Inoltre abbiamo una distribuzione internazionale che si occupa della distribuzione televisiva nel mondo. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? Si può seguire il sito del film stesso, montecornofilm.it, oppure il sito del distributore Wanted Cinema, wantedcinema.eu, per seguire appunto, man mano che si aggiungono le date, il calendario di proiezioni che faremo. Il film Montecorno, pareva che io fossi in aria, al cinema da lunedì 17 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Luca Cococcetta. Alla prossima! Grazie, grazie a voi. Con Raffaella Rivi, regista del documentario Sci Otello, al cinema da martedì 11 febbraio 2025. Ben trovata. Grazie, grazie mille per l'invito. Cosa hai raccontato? Questo docufilm racconta il processo creativo che sta alla base della messa in scena di uno spettacolo, e lo spettacolo in questione è una versione dell'Otello di Shakespeare, però con i ruoli rovesciati, dalla compagnia del Centro Teatrale da Ponte di Vittorio Veneto. E il film si appoggia su quello che è la struttura dello spettacolo per poi ragionare su questi temi che vengono portati avanti durante tutto il documentario. I temi che solleva questo spettacolo sono temi che hanno a che fare sia con la difficoltà di comunicare, che è alla base della tragedia, con appunto le fake news, il fazzoletto che alla base dell'inganno diventa una riflessione anche per cos'è oggi una fake news, per poi riflettere in particolar modo su quello che è la violenza e specificatamente, essendo i ruoli rovesciati, cos'è la violenza di genere, qual è il ruolo della donna oggi, lo stereotipo sociale che l'accompagna. Com'è nato il progetto? Per me è arrivato come una proposta dalla casa di produzione e di appunto provare a raccontare questo progetto della compagnia teatrale. Noi siamo arrivati come compagnia cinematografica, come casa di produzione, alla fine del progetto teatrale, quindi lo spettacolo era già messo in scena, per cui il lavoro è stato quello, attraverso una serie di interviste, di ricostruire ex post quelle che sono le tappe fondamentali della creazione di uno spettacolo teatrale e di prendere dei frammenti di spettacolo girati apposta per il docufilm, in cui si mettono in relazione i momenti dello spettacolo con appunto le tematiche che si sono affrontate. Com'è stata la lavorazione? È durata un paio d'anni. C'è stata una prima fase girata a Forte Marghera, un vecchio spazio militare, adesso è uno spazio aperto a attività culturali, uno spazio molto suggestivo, con mattoni faccia vista, e lì si è girata tutta la parte di fiction di queste scene, che sono i cinque capitoli della fase creativa, che sono anche i cinque temi che vengono affrontati in questo spazio che è un po' senza tempo. Quindi la cosa interessante era provare a anche non caratterizzare troppo con un tempo, intendo tempo di epoca, le immagini del film. Quindi c'è stata questa prima fase di lavorazione, a cui poi sono seguite le fasi di intervista e di anche rappresentazione delle persone intervistate nei loro spazi. Quindi accanto a quello che è il lavoro di rappresentazione cinematografica e teatrale c'è anche un lavoro di analisi della realtà di quelli che sono poi gli intervistati e le intervistate. Quindi un po' in questo processo di attualizzazione di Shakespeare della tragedia era anche interessante mettere in relazione, secondo me, quelli che sono i due mondi, no? Il mondo, diciamo, della finzione e della realtà e capire dove sta uno e dove sta l'altro. Che tipo di distribuzione avete pensato? Adesso sta girando nei cinema, credo che poi verrà mandato a qualche festival e sarà anche visibile su Sky Arte. Quindi è un progetto che è pensato anche per essere accessibile al grande pubblico. Per te che esperienza è stata? Molto interessante, un'esperienza anche che sfidante, un'esperienza in cui ho cercato di costruire questo reticolo di interazioni e sicuramente mi ha spinto anche a riflettere e affrontare sempre più in profondità appunto le tematiche di cui parlavo prima. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? Sul sito della casa di produzione cublefilm.it. Anche sui social, Sciotello. Qual è stato il tuo percorso cinematografico finora? Il mio precedente docufilm, che si chiama Più della vita, è sempre un docufilm che racconta una relazione tra teatro e cinema anche qua, più orientata alla narrazione di un artista, che è Michele Sambin, che ha lavorato in entrambi i mondi, è stato un pioniere della videoarte italiana ed è stato anche uno dei fondatori del TAM Teatro Musica, che è stata una delle compagnie nata negli anni 80 molto importante in Italia. Questo perché il mio è un percorso misto, io lavoro sia in teatro come videoscenografa sia anche appunto nel cinema e quindi sono rimasta collegata a questi due mondi qua, quindi mi piace analizzarli e rappresentarli in queste sfaccettature. E poi ho lavorato anche durante la pandemia col Teatro Stabile, in cui abbiamo proprio realizzato due progetti abbastanza importanti, di spessore, sempre tra cinema e teatro. Il docufilm Sci Otello al cinema da martedì 11 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Raffaella Rivi. Alla prossima! Grazie a tutti, grazie! Stefano Di Pietro, regista del documentario War on Education, al cinema da lunedì 24 febbraio 2025, ben trovato. Ciao Federico, grazie per l'invito. Cos'è questo lavoro? Il documentario affronta la guerra in Ucraina su una prospettiva unica, diciamo, non se ne è parlato tanto, forse in alcuni giornali internazionali, cioè sul ruolo dell'educazione in questo conflitto e della propaganda e come la propaganda passa attraverso l'educazione. E questo viene fatto da vari punti di vista. Il primo è identificare un sistematico attacco all'educazione e al patrimonio artistico-culturale dell'Ucraina. Sappiamo che ci sono circa 4.000 scuole che sono state danneggiate o distrutte dall'inizio dell'invasione. Sappiamo che ci sono 40.000 bambini che sono stati rapiti dall'Ucraina e portati in Russia per la rieducazione e sappiamo che al momento nei territori occupati 1 milione di bambini ucraini sono costretti a seguire nelle scuole un'educazione che li identifica come neonazisti, che identifica questa guerra come un'operazione speciale e quindi che veicola propaganda di Putin nei libri di scuola. Gli stessi libri che i bambini russi devono studiare avendo solo questo libro di testo obbligatorio in tutte le scuole. Inoltre il documentario affronta il processo da cui il cosiddetto di russificazione, cioè un processo che dura non da questa invasione, non dall'inizio della guerra nel 2014 o l'invasione del 2022, ma dal periodo degli zar, dal periodo di Alessandro II, in cui la lingua ucraina viene identificata come non esistente è proibita. Quindi ecco, questo forse identifica il documentario come qualcosa di che spesso non si conosce, non si approfondisce, avuto la possibilità di parlare con tanti esperti, tra cui o istituzioni come il ministro dell'educazione ucraino a Kiev, responsabile dell'UNICEF a Kiev, e Alexander Krebet, un giornalista del Kiev Independent sotto copertura nei territori occupati, e quindi si delinea un quadro, anche una storica russa, è Tamara Edelman, che appunto ci racconta come l'educazione si è evoluta nel corso della sua lunga carriera, e quindi c'è una prospettiva direi ampia che si intervalla anche a semplici e importanti testimonianze di persone che hanno perso la casa o insegnanti che nelle scuole lottano per un'educazione libera. Come era nato l'idea, il progetto del film e poi come ci hai lavorato sopra? Allora, l'idea è nata da una prima richiesta di aiuto subito dopo l'invasione di una insegnante di storia ucraina che non aveva i fondi per stampare libri, perché tutti i fondi dell'educazione sono stati spostati subito al Ministero per la Guerra. E mi è stato chiesto se volevo partecipare con qualcosa che potesse aiutare il fundraising, la raccolta fondi, e io ho fatto un corto che si chiama Books Not Bombs, che potete trovare online, e questo mi ha fatto conoscere una situazione di questi insegnanti, e ho capito che questa situazione non si riferiva solo a questi insegnanti, ma era la situazione dell'educazione di un paese, e quindi ho proposto a Euroclio, European Association of History Educators, l'ONG più grande che si occupa di insegnamento della storia, che soprattutto in paesi con recenti conflitti fa in modo che non ci sia, diciamo, una educazione a senso unico dopo la fine dei conflitti, se volevano produrre quest'idea, questo documentario che avevo su appunto che si sarebbe focalizzato su tutto il problema a livello del presente e del passato. E loro sono stati, hanno appoggiato questa idea e abbiamo iniziato a girare nell'estate del 22, abbiamo fatto le prime riprese fino alla fine del 2023. E poi c'è stata la post-produzione, abbiamo finito nel 24, ci sono anche delle riprese che abbiamo fatto ovviamente in remoto, ho diretto una crew russa in Russia, a Mosca, durante il conflitto, dove si vede proprio un ragazzo che ovviamente è rimasto anonimo, come la stessa crew per motivi di sicurezza, in cui si vede lo stesso libro fresco di stampa che racconta la propaganda russa agli studenti dai 16 ai 18 anni nelle scuole russe, e anche questo è una testimonianza rara e preoccupante. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? Il modo migliore forse è waroneducation.org, è un sito web dove mettiamo tutte le informazioni anche legate alla campagna, perché ovviamente in parallelo a questo documentario ci sono stati azioni umanitarie, appunto raccolte fondi, e ci sono tutte le prossime date. Forse vale la pena parlare soprattutto di quelle in Italia, che sono a brevissimo, appunto il 24 per l'anniversario ci saranno delle proiezioni in Svizzera, Francia, Olanda e Italia in contemporanea, proprio per l'anniversario dell'invasione, del terzo anno. Io sarò a Roma al Cinema Lux alle 21 e in dialogo con Frediano Finucci di La 7, e quindi questa sarà la prima data a Roma, ne seguiranno tante altre in cui cercherò anche di essere presente. Quella subito dopo il 26 febbraio allo Spazio Alfieri di Firenze, e poi ce ne saranno tanti altri che potete trovare sul sito. Il documentario War on Education al cinema da lunedì 24 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Stefano Di Pietro. Alla prossima! Grazie a voi. con Lisa Bosi, regista del documentario Going Underground, al cinema da lunedì 24 febbraio 2025. Ben trovata. Grazie mille, grazie a voi. Cos'è questo lavoro? È un lavoro sulla band forse più importante del punk e della new wave italiana, un lavoro che mi permetteva, i Gas Nevada, un lavoro che mi permetteva di parlare di una grande fascia della musica ma anche della società italiana, perché si passa dalla Bologna del 77, quindi dagli anni di piombo, fino all'edonismo anni 80, e si vede nel documentario cosa succede. Com'era partito il progetto? Il progetto è partito conoscendoli, io ho sentito, ero un'infiltrata in una loro cena e ho sentito quello che raccontavano e mi sono sembrate subito cinque vite assolutamente non convenzionali che da documentarista andavano raccontate. C'è ovviamente anche tanta droga, sono gli anni in cui arriva l'eroina e la prima cosa che ho chiesto a loro era di raccontare in maniera assolutamente sincera, a tratti anche crudele, però quello che mi interessava era un po' andare a sospendere il giudizio dello spettatore, nel senso sì, abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto, però da veri artisti poi siamo arrivati anche al successo. È un viaggio dell'eroe quello che loro hanno fatto, con tutti i pro e i contro di questo viaggio. Lo stile ricorda molto il videoclip. Ecco, che taglio hai voluto dare alla storia? Sì, mi è stato subito chiaro che non volevo fare un documentario con la forma classica delle interviste sedute. E per loro avevo previsto una lunga sessione che è durata circa un anno di interviste private, solo audio, venivano nel mio studio e si raccontavano in maniera più sincera possibile. Da lì poi è nata una sceneggiatura che da un lato prevedeva tutta una serie di voice over registrati loro e dall'altro lato c'è questa impalcatura di una storia nella storia, dove loro come dei supereroi, loro sono gli invincibili guardiani della libertà del mondo, questo da sempre il loro claim, riatterrano in questo mondo e provano a reinserirsi e di nuovo a combattere la falsa retorica, le false ideologie. Quindi è un documentario sì che spero risulti molto veloce e vicino senz'altro più al mondo del videoclip musicale. È anche ricco di materiali d'archivio. Sì, c'è stata una grande ricerca d'archivio, grazie anche ai miei produttori, sono riuscita a mettere le mani sul preziosissimo archivio di Red Ronnie, che di quegli anni ha veramente un archivio inesauribile di tutti quei gruppi, e la Cineteca di Bologna, che è famosissima in tutto il mondo, abbiamo trovato per esempio un documento di un loro concerto romano inedito che è stato digitalizzato appositamente per questo film. Ci sono tanti archivi privati ovviamente, sì, la ricerca d'archivio come al solito nel documentario è una parte molto importante, il 50% secondo me di un documentario. La scelta del titolo? La scelta del titolo è perché loro si sono sempre mossi nell'underground, adesso non voglio spoilerare troppo il documentario, però nel momento in cui loro arrivano al successo, arriva l'Italia degli anni Ottanta, l'edonismo, alcuni di loro non ce la fanno, si chiedono è questo l'unico futuro possibile. Secondo me molti musicisti quando arrivano al successo hanno un po' questo problema in cui magari i fan si sentono traditi, loro alcuni ci stanno a calcare i nuovi palchi, arrivano al Festival Bar, arrivano da Pippo Baudo, e altri invece si sentono in crisi con loro stessi, è una crisi personale che ogni artista secondo me deve poi un attimo affrontare quando arriva il successo vero. Frequentarli che esperienza è stata anche per la realizzazione del documentario? È stata un'esperienza molto particolare, penso anche per loro, perché alcuni di loro non si vedevano da tantissimi anni, quindi si sono riuniti appositamente per questo documentario. Sono cinque persone, tutte molto protagoniste, hanno le loro diciamo difficoltà nello stare assieme, però quando li metti insieme sono geniali. ed è quello probabilmente che nelle band, no, nei gruppi funziona, l'unione, ognuno di loro dà qualcosa e arrivano a un risultato sorprendente. Ecco, questo è successo secondo me anche nel documentario. Chiaro, con tutti i litigi sono stati, alla fine del film uno di loro dice, siamo stati litigiosi, assolutamente, però alla fine è anche la famiglia che ti sceglie, il gruppo musicale di cui fai parte. Che uscita sarà? Sarà un'uscita evento 24, 25, 26 all'interno del mese del documentario di Wanted Cinema, che insieme a Sonne Film ha coprodotto il documentario. E io in alcune date sarò in presenza, quindi parto da adesso dal CU Sound, il festival musicale dedicato a documentari musicali a Torino. Il 23 ci sarà la prima, il 27 la seconda, con anche un show, un DJ set live dopo dei Gas Nevada, e poi passerò a Bologna il 24, il 25 al Cinema Galliera, il 25 sarò al Cinema Beltrada a Milano, il 26 al Proisi a Roma, e poi insomma seguiranno a marzo altre città, però al momento queste sono le date di febbraio. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? Si può trovare online sicuramente il trailer, ancora caricato dal Festival dei Popoli, uno dei più importanti festival del documentario in cui abbiamo fatto l'anteprima mondiale, a novembre ancora, e direi per ora seguiteci nelle nostre pagine, la pagina di Gas Nevada, di Wanted Cinema e la mia, metteremo fuori tutte le date, ecco. Il documentario Going Underground, un'uscita evento da lunedì 24 febbraio 2025 per 3 giorni. Un saluto e un ringraziamento alla regista Lisa Bosi. Alla prossima! Grazie mille! Con Giovanni Lorusso, regista del documentario A Man Fell, in proiezione a Torino, al Cinema Massimo, martedì 25 febbraio 2025. Ben trovato. Grazie, ciao. Cos'è questo lavoro? Ce ne parli? Ce lo presenti? Allora, A Man Fell è il mio secondo lavoro documentario girato nell'area di Sabra Shatila, che è un campo di rifugiati palestinese, non solo palestinese, all'interno di Beirut, in Libano, dove ho viaggiato parecchie volte dal 2020 dall'esplosione del porto, e ho avuto la possibilità di incontrare questa comunità e passare parecchio tempo con loro, e negli anni mi sono interessato a documentare la loro vita, il loro modo in qualche modo adattarsi a sopravvivere, sia dal punto di vista fotografico sia con lavori più cinematografici. Questo film è stato presentato a Venezia alla Giornata degli Autori nel 2024, mentre il film precedente, Song of Lens, sempre girato negli stessi campi, è stato presentato a Rotterdam International Film Festival nel 2024. Quante persone ospita il campo? È un numero parecchio difficile da considerare, perché soprattutto dal 2011, quindi il campo esiste dal 1948 dopo Nakba, quando la UN aveva preso controllo dell'area e praticamente affittato al governo libanese. Ci sono stati diversi cambiamenti, un tempo era solamente un campo di tende e dopodiché è diventato un vero e proprio centro con costruzioni fatte in cemento e mattoni. I numeri sono purtroppo difficili da definire, perché soprattutto nel 2011, con l'arrivo, con la guerra di Assad, l'arrivo degli immigrati dalla Siria, il numero è aumentato esponenzialmente, possiamo immaginare che gran parte anche dei nati non sono più registrati lì, quindi siamo nelle diverse migliaia, ma è una considerazione difficile, anche perché non c'è controllo da parte del governo libanese dentro del campo, di conseguenza molti sono gli ingressi e le uscite dal campo ed è, non c'è un numero preciso, ecco. Come sono le condizioni di vita? Beh, le condizioni di vita sono estremamente drammatiche all'interno del campo, all'interno di qualunque campo palestinese all'interno del Medio Oriente. La situazione lì è ancora più aggravata dal fatto che i palestinesi, così come i siriani, sia registrati che non registrati, vivono in qualche modo una condizione di cittadini di seconda o terza categoria. Non hanno la possibilità di uscire dal campo a cercare dei lavori per così dire più normali o più interessanti per loro. C'è una lista di circa 36 lavori, fra cui essere dottore, avvocato, eccetera, che sono, da cui loro sono esclusi. Quindi questo è uno dei limiti più grandi. In secondo luogo, il loro unico sostegno è da parte della UN, dell'UNRWA, quindi sì, c'è una forma di educazione, di controllo sanitario, eccetera, ma sono sempre estremamente limitati. Gran parte di loro non hanno in possesso un vero e proprio passaporto, di conseguenza sono costrette a vivere lì e sono costrette a vivere senza delle possibilità effettive per poter progredire, poter avere un futuro migliore, soprattutto per i giovani. Come si è organizzata la comunità? Allora, in qualche modo c'è una forma di autosufficienza all'interno del campo, perché c'è un mercato, c'è un import, un export, c'è una, da ogni punto di vista, sia dal punto di vista del cibo, dell'acqua, in qualche modo la ampiezza urbana, anche se estremamente di basso livello, c'è controllo di medicinali, quindi ci sono diversi centri farmacie, per esempio la gente può trovare le medicine che gli servono, gran parte vengono donate dalla UN, dall'ONU, e ci sono numerosissime NGO, quindi organizzazioni non governative che cercano di creare situazioni per l'educazione, eccetera. Ovviamente manca un'infrastruttura vera e propria che possa garantire un equilibrio un po' migliore, soprattutto perché il campo di per sé è abbastanza denigrato non solo dalla parte cristiana del Libano, ma anche da quella musulmana un pochettino più agiata che vive nelle zone limitrofe al campo. Come è strutturato il documentario? Allora, il documentario, i miei lavori generalmente non sono di natura narrativa, il mio interesse principale è quello di esplorare e raccontare gli eventi di un determinato periodo, che ogni volta generalmente sono una finestra di circa 5-6 settimane, dove incontro nuova gente e cerco di inglobalizzare all'interno di un periodo che generalmente dura tra i 65-75 minuti, cerco di inglobalizzare un po' tutti gli eventi che hanno marcato la mia esperienza lì, che possono essere storie raccontate, quindi di eventi avvenuti prima o eventi che avvengono nel momento in cui sono lì. E l'idea è sempre di trovare una forma di filo rosso che possa condurre questi eventi tutti assieme. Nel caso di Emenfel specifico, la guida, un po' il nostro Virgilio, diviene un bambino di 11 anni di nome Rafat, che ha problemi di udito, è praticamente quasi completamente sordo, e quindi attraverso i suoi occhi in qualche modo ci presenta i vari piani di questo palazzo, appunto un ex ospedale ormai abbandonato, diventato un centro illegale, squatting per rifugiati palestinesi. Sono 11 piani, attraverso questi 11 piani lui ci porta a conoscere le varie storie, i vari personaggi, ovviamente non tutti, perché ci sono forse un 500 se non più persone che vivono lì, però incontriamo almeno una trentina o quarantina di persone all'interno di questa sua osservazione. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più sul tuo documentario? Tutto il mio lavoro è sia fotografico che filmico, è possibile visitarlo a www.giovannicillorusso.net. Lì la pagina si apre con la presentazione di quattro lavori, fra cui il trailer di Emenfel e degli altri film. Il documentario Emenfel, candidato ai David di Donatello e in proiezione a Torino al Cinema Massimo martedì 25 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Giovanni Lo Russo. Alla prossima. Grazie Federico, alla prossima. Con Ivana Gloria, regista del cortometraggio Cinema Corso. Ben trovata. Ciao, ciao, grazie della chiamata. Ci presenti questo lavoro? È un piccolo film che ho realizzato, ho avuto questa urgenza perché io sono di Domodossola e quando ho proiettato lì il mio primo film, Clorofilla, ho scoperto della vendita dell'attività da una famiglia che l'ha fondato e mantenuto per 3 generazioni e mi è dispiaciuto tantissimo perché tra l'altro è una sala bellissima su 3 piani con 600 posti. che avrebbe bisogno sicuramente di essere rinnovata, però sicuramente non mi aspettavo che venisse distrutta, a quanto pare probabilmente per fondarci un albergo e verrà mantenuta una piccola sala. E quindi volevo mantenere la memoria storica di questo luogo, che è caro perché ci sono cresciuta, ci sono andata le prime volte al cinema e credo che i muri trattengano comunque delle storie e quindi volevo raccontarle. Come lo hai articolato? Ho inizialmente fatto una riflessione su il passato e il futuro di questo luogo e mi piace spesso partire dal suono e quindi inizialmente volevo fare un racconto ironico in cui ci fossero i suoni della distruzione, della demolizione di un cantiere, insieme però al ricordo del passato. Questo poi durante la realizzazione mi sono accorta che mantenere una dimensione ironica non era possibile e quindi ci siamo soffermati più che altro sulla poesia. È stato tutto molto veloce perché il corto l'abbiamo girato a giugno l'anno scorso. Ho contattato Luca Bigazzi, che è un direttore molto importante in Italia, ha fatto veramente un sacco di film e abbiamo girato con un iPhone per essere proprio in super low budget, eravamo solamente io, lui e Davide Casarotti, un amico regista che ci ha dato una mano a reggere le luci proprio come uno stativo umano. E ho contattato la mia maestra delle elementari che ci insegnava a disegnare, quindi rappresentava un po' l'arte che puoi vivere al cinema. E ho chiesto a lei di essere l'ultima spettatrice di questo piccolo racconto che ho scritto insieme a Francesco Toto, uno sceneggiatore, e poi è stato super importante l'apporto di Noemi Obinu e Cristian Marsiglia, i montatori, abbiamo montato a distanza queste immagini, e di Silvia Orengo e Carlo Purpura che hanno poi fatto il suono e il mix, la color fatta da Andrea Orsini e un piccolo visual effects. Quindi diciamo una piccola squadra che ha seguito questi lavori in mezzo ad altri impegni nell'arco di qualche mese, che però ha portato alla luce un piccolo corto di cui sono molto fiera, più che altro perché arriva forte il messaggio. Ho già ricevuto vari messaggi di amici che andavano a quel cinema e si commuovono a vederlo e questo mi dà grande gioia, ecco. Quello della chiusura delle sale cinematografiche è una tendenza purtroppo in corso. Che ne pensi del cinema come dimensione collettiva? Sì, esatto. Penso che sia molto importante mantenerla perché magari ora i film si scaricano perché comunque andare al cinema ha un costo, ma è impagabile l'esperienza che si può avere collettivamente quando tutte le persone dentro una sala anche per un istante provano la stessa emozione. Per esempio andare a vedere i film durante un festival non è come andare al cinema perché la sala in un festival è piena di gente. Magari al cinema non capita se non per una premiere o se viene un ospite e quindi vorrei invitare i giovani che magari non pensano più questo ad andare al cinema proprio come un'esperienza collettiva in cui si possono condividere, creare dibattiti, cambiare idee. E per quanto riguarda l'uscita, infatti, siccome proprio spesso le sale recentemente vengono convertite a usi più commerciali e redditizi, ci volevamo accodare a questa polemica che abbiamo visto, ricevuto una mail dai 100 autori, dove c'è una sorta di petizione ancora non ufficializzata. Io non ho mai creato una petizione, ma vorrei che si concretizzasse in modo tale che tutti i cittadini e non solamente gli addetti ai lavori possano firmare per creare una legge o comunque qualcosa che impedisca la trasformazione di questi luoghi che sono di vitale importanza per la cultura e per la socialità. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più sul corto? Il corto è in anteprima per una settimana sulla pagina di Repubblica Spettacoli, My Movies, e appunto su mymovies.it e per chi è abbonato anche per My Movies One. E sui canali social, sulla mia pagina Ivana Gloria, si potrà scoprire prossime proiezioni. Il cortometraggio Cinema Corso, un saluto e un ringraziamento alla regista Ivana Gloria. Alla prossima! Grazie mille, ciao! con Lucia Perrotta, una delle curatrici dell'evento dedicato alla fotografa Nan Golden, con la proiezione del documentario Tutta la bellezza e il dolore di Laura Poitras a Roma a WSP Fotografi venerdì 21 febbraio 2025. Ben trovata! Grazie per l'invito. Cos'è questo appuntamento? Questo appuntamento è la proiezione di appunto Tutta la bellezza e il dolore, documentario di Laura Poitras, che ha vinto nel 2022 la Mostra del Cinema di Venezia. Un documentario incentrato sulla vita di Nan Golden e incentrato, oltre che sul suo percorso di vita, il suo percorso artistico, sull'importante lotta che ha fatto contro la famiglia Sackler, proprietaria della compagnia farmaceutica responsabile dell'epidemia di oppioidi negli Stati Uniti, che causò circa, insomma, 500.000 morti. E Nan Golden parte, come in tutta la sua vita, in tutto il suo percorso, da qualcosa di personale, quindi lei stessa è stata dipendente dall'ossicodone, l'oppiaceo che lei ha iniziato a prendere per curare un dolore alla gamba e che poi appunto ne è diventata dipendente. Come nasce questo appuntamento? WSP Fotografi è una scuola di fotografia riconosciuta l'anno scorso dopo 15 anni come scuola d'arte dalla regione, ma è un'associazione di promozione sociale che appunto da quando siamo nati, da circa 20 anni, ci occupiamo di promuovere fotografia nel nostro piccolo, cultura fotografica e di, insomma, confrontarci sulla nostra passione più grande, che è appunto la fotografia. Quindi questo appuntamento rientra negli appuntamenti in cui ci ritroviamo nel nostro spazio tra San Paolo e Garbatella, dove condividiamo appunto appuntamenti come questi o presentazioni editoriali, lo spazio è anche uno spazio espositivo e, insomma, crediamo molto nel linguaggio del documentario, non è la prima volta. Quello delle proiezioni è per noi forse tra gli appuntamenti più impegnativi, perché ci sono, insomma, dei costi, c'è la distribuzione, insomma c'è tanto lavoro dietro, però crediamo in questo linguaggio tantissimo, lo sosteniamo e quindi, ecco, nasce un po' con questa idea di questo rito collettivo di vedere, insomma, documentari come questo insieme, di parlarne, di confrontarci. Questa fotografa Nan Golden cosa rappresenta per voi? Che importanza ha? Rappresenta forse per il mondo intero dell'arte e della fotografia un riferimento incredibile, nel senso che è una pietra miliare. Lei è una fotografa rivoluzionaria, potremmo chiamarla, nel senso che parte dall'idea dell'istantanea in fotografia, quindi l'istantanea come fotografia dove si ricordano le cose, quindi lei parte da quel modo di fotografare per raccontare, come diario intimo, come diario visivo, per raccontare, insomma, una generazione intera, quella che è stata la sua. E quindi, ecco, questo uso della fotografia soggettiva da dentro. Nan Golden è, oltre che fotografa e artista, è praticamente un attivista, sempre in prima linea nella difesa di cause sociali, e quindi la sua opera è veramente un diario pubblico e privato, insomma è stato un punto di riferimento per intere generazioni di fotografi dopo la sua. Come si svolgerà l'evento? Questi tipi di eventi sono accompagnati, diciamo, da un momento di ritrovo tra chi partecipa, c'è un piccolo aperitivo, quindi questa idea di ritrovarci un po' insieme nello spazio, e poi c'è la proiezione. Ci sono 25 posti, a un costo di 10 euro a sottoscrizione, che comprende l'aperitivo e la proiezione. Appuntamento dedicato alla fotografa Nan Golden con la proiezione del documentario Tutta la bellezza e il dolore di Laura Poitras a Roma, WSP Fotografi, venerdì 21 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Lucia Perrotta. A presto! Grazie, grazie a tutti e tutte. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.